rispondenza riguardo le lotte dei lavoratori immigrati delle cooperative di logistica dell'Interland milanese. Lo facciamo adesso con Fabio. Ciao Fabio. Ciao, ciao. Allora, insomma, abbiamo già avuto modo di parlare di quella che è un altro fronte di lotta che si è aperto della cooperativa ALA. Adesso, insomma, con te intanto ti chiediamo di poter fare un quadro di aggiornamento sulla lotta di Basiano e poi, insomma, cerchiamo anche di approfondire queste lotte dentro questa fase, insomma, politica e di crisi economica oggi. Ma intanto, insomma, facciamo un aggiornamento, ricordiamo che ci stanno compagni, insomma, che i lavoratori sono intanto licenziati tutti e ci stanno ancora compagni agli arresti domiciliari dopo quella nefasta, insomma, giornata di scontri con la polizia e con i crumiri di fronte ai cancelli della cooperativa. Sì, allora, vabbè, per amor di precisione, lo scontro è stato con i carabinieri, non che ci sia chissà quale differenza. Sì, no, no, però, con le forze di ordine. Precisi nelle informazioni e col crumiri, in realtà lo scontro non c'è stato perché i crumiri caricati su un pullman come bestiame sono rimasti sempre a un centinaio di metri dai cancelli, sono entrati dopo la mattanza. Quindi, a differenza di quanto successe in Esselunga, dove la decisione aziendale fu proprio quella di provocare uno scontro diretto tra lavoratori, in questo caso la decisione è stata quella di liberare prima i cancelli con l'intervento dei carabinieri e con quello che immagino abbiate già raccontato, e poi di far entrare i lavoratori di questa cooperativa che tra l'altro non aveva al momento l'appalto. Queste sono informazioni che sono emerse dopo, diciamo, quando, che poi è la fase in corso, la battaglia di Basiano, che è pienamente in atto, ha cominciato a percorrere anche strade diverse. Cioè, possiamo dire che ci sono tre fronti, tutti aperti e tutti molto caldi. Uno, diciamo, di carattere legale, per cui il 12 luglio ci sarà un'udienza d'urgenza in cui è stato, diciamo, chiesto dai legali che i lavoratori vengano assorbiti dalla ditta, dall'azienda, la nuova azienda appaltante che ha rilevato appunto l'appalto lasciato vacante dalla cooperativa Alma, con la conseguenza di 80 e quindi c'è un scusa Fabio, è andato un attimo via a linea, se puoi ripetere, insomma, la cooperativa Alma ha lasciato l'appalto con 89 lavoratori a che spazio, sono stati, diciamo, quindi licenziati dalla cooperativa uscente e che invece per contratto nazionale di lavoro, visto che l'appalto continua, cioè non è che il gigante ha chiuso i suoi magazzini, ma semplicemente appaltato a una nuova azienda che è Italtrans la copertura del magazzino in cui lavoravano questi 89. Il contratto dice in maniera molto esplicita che le 89 persone devono essere assorbite dalla ditta che entra, in questo caso Italtrans, che invece ha provveduto a subappaltare a una nuova, a una cooperativa già conosciuta, tal Bergamasca, la copertura di questo, chiamiamolo, servizio. Da lì è nato, come dire, lo scontro ai cancelli, ma da lì è nata anche una vertenza legale che appunto il 12 luglio vedrà questa udienza urgente. E su questa questione, altro, diciamo, fronte di battaglia, si è gioco forza aperta anche una trattativa che ha coinvolto la prefettura, il Ministero del Lavoro, i consolati degli immigrati che sono stati licenziati, feriti e arrestati, sostanzialmente egiziani e pakistani, sono entrati in campo anche i loro consolati chiedendo rispetto della, diciamo, della normativa, della legge, del contratto in vigore. E vabbè, sono intervenuti anche meschinamente CGIL e CISL e UIL, o meglio la CGIL ha disertato i tavoli, CISL e UIL si sono schierati apertamente con i padroni, con il gigante Italtrans e questa nuova cooperativa che subentra, che si capisce perché subentra, semplicemente perché paga gli operai la metà di quanto erano pagati prima. Ancora meno di come erano pagati prima i lavoratori con l'altro, quindi c'è praticamente zero. Alma garantiva il rispetto del contratto nazionale del lavoro, guardando il netto della busta, lasciamo perdere il modo in cui questa busta veniva composta, però siccome insomma siamo operai e per campare abbiamo bisogno di un buon netto e non di un buon lordo e di un netto decurtato del 40%, infatti, diciamo che prendevano 9 euro all'ora, così andiamo sul concreto, parla come mangi, 9 euro all'ora prendevano. Questi invece lavoratori della nuova cooperativa, che in maniera fraudolenta li ha sostituiti provocando anche degli scontri con i lavoratori in sciopero, ne prendono meno di 5. Questo è riscontrabile dalle buste paga. A fronte di una lotta insomma su questi argomenti eccetera, c'è la spacciataggine del padrone, in questo caso è così grande che ha preso un'altra azienda con meno, insomma, con dei diritti minori e con salario minore, insomma. Sì, l'operazione in realtà è in corso da parecchi anni. Noi ovviamente abbiamo conosciuto questi lavoratori solo di recente e diciamo concatenata la lotta di Pioltello dell'Esselunga, di cui probabilmente avete anche avuto modo di parlare, sì, dalla radio. È concatenata proprio per i protagonisti che vivono nello stesso quartiere, stessa nazionalità e hanno lavorato varie volte insieme, insomma, attraverso questa cooperativa Alma che ha un pezzo di appalto anche in Esselunga. In realtà è da diversi anni che è in corso questa, come dire, rimozione attraverso tentativi di licenziamento, poi buone uscite, trasferimenti da una cooperativa a un'altra, perché sono lavoratori che lavorano lì da 20 anni, quindi il costo della forza lavoro, mettendo insieme livelli, scatti d'anzianità e tutte le voci che compongono, diciamo, una busta paga normale, sempre comunque bassa, però diciamo normale, per il padrone molto più redditizio poterli sostituire con manodopera più ricattabile a più basso costo, tramite accordi con i sindacati, in questo caso in particolare con la UIL e con la CISL, a riuscire ad ottenere delle ulteriori riduzioni sul pagamento di tredicesime, quattordicesime, ferie, tutta una serie di voci rispetto alle quali, dichiarando uno stato di crisi che dura da almeno 5 anni per questa cooperativa bergamasca, riescono a decurtare circa, diciamo, 250 euro al mese di stipendio. È tantissimo. Quindi è chiaro che forse anche di più, forse anche 300, diciamo, al netto, parlo di netto. Quindi è chiaro che per i padroni conviene trovare tutte le maniere possibili e immaginabili per eliminare manodopera, diciamo, che costa il giusto, considerando come giusto il contratto nazionale. Poi se facciamo un ragionamento politico sulla crisi, i profitti, i settori che tirano, è un giusto, non troppo giusto neanche quello, per cui si potrebbe aprire un capitolo. Infatti parliamo, ma facciamo una parentesi. È un settore che tira, cioè qui ballano milioni di euro. I centri commerciali, insomma, quindi ecco. È tutta la distribuzione, tutto ciò che non può essere delocalizzato, quello che invece le fabbriche, dove le grandi aziende che hanno accumulato profitti e hanno, come dire, accumulato profitti anche grazie a dei grossi investimenti sul terreno finanziario, hanno la possibilità di trasferire la produzione altrove, Polonia, Ungheria, Brasile addirittura, Centro Africa, e quindi minacciano e spesso realizzano chiusure di interi stabilimenti per trasferire la produzione altrove. È chiaro che la distribuzione delle merci, cioè la merce può partire da dove vuoi, ma se la devi vendere a Milano la devi sbarcare a Milano, e per sbarcarla ci vanno operai che la sbarcano, quindi non è delocalizzabile. E quindi questo forse spiega anche perché nell'intero mondo delle cooperative e della logistica, una volta stappata la bottiglia con un paio di vertenze importanti e vincenti, non dico che sta dilagando, però noi ogni giorno riceviamo contatti da decine e decine di lavoratori di cooperative nuove. L'ultima, ne hai parlato tu. dell'ALA, sì. Dell'ALA, sì, per notizie di ieri. Appunto, no, questo era è un elemento di discussione, insomma, che volevo fare con te. Diciamo che la lotta di Basiano, ma anche quella di Esselunga, che fu, insomma, la prima più grande, insomma, che ha posto alcune problematiche centrali di contraddizione di quello che dicevamo prima, no? Il fatto che comunque un settore che non può andare a delocalizzare e vede nella decurtazione salariale, nell'abbassamento dei diritti, quindi l'abbassamento anche del costo del lavoro, una leva per continuare a fare profitto. Ecco, lo fa sulla pelle di lavoratori, lo fa sulla pelle di lavoratori immigrati. Ecco, quindi la lotta di Basiano, la lotta di Pioltello stanno cominciando ad incidere non tanto sul livello resistenziale, come abbiamo conosciuto dall'inizio della crisi ad oggi, delle lotte del mondo del lavoro operaio e non solo, ma si stanno tracciando dei punti di avanzamento in queste lotte, quindi possono essere prese da esempio, facendole emergere anche da un vertenzialismo, ecco, circoscritto soltanto magari a quelle due o tre vertenze, perché insomma stanno cominciando ad essere di esempio per il mondo del lavoro nazionale, ma soprattutto per il mondo del lavoro immigrato a Nord Italia. Che diventino un esempio ce lo auguriamo, nel senso che ce n'è un gran bisogno. In realtà queste battaglie partono sul terreno economico, partono da condizioni, diciamo, disastrose. Abbiamo condotto delle battaglie come all'SDA di Carpiano, in altre aziende dove interveniamo, dove le condizioni erano talmente disastrose che, come dire, sono diventate delle vertenze economiche a guadagnare. Quindi non resistenziali, nel senso che partivi da un livello 5 per arrivare a un livello 30. E altre sono lotte di resistenza, laddove, come per esempio a Basiano, è il padrone che attacca. È il padrone che cerca di accumulare ulteriori profitti nella logica anche della competizione fra i grandi colossi della grande distribuzione, chiaramente. Ma non c'è niente di nuovo da questo punto di vista, mi sembra di poter dire. Cioè, è la logica del capitalismo che va in quel senso lì. Quindi laddove mi conviene trasferire la produzione altrove, perché là i salari sono a 300 euro al mese, se va bene, anche meno, o ricatto i lavoratori, come è successo a Pomigliano, nel gruppo Fiat e non solo, dico: se volete continuare a lavorare qui le condizioni sono queste, se no io chiudo la fabbrica, nessuno me lo può impedire e vado a produrre a 4.000 km di distanza. Qui invece la cosa non è di questa natura, come dicevo prima, qui la distribuzione deve essere effettuata, qui tutto Nord, come dire, mentre le fabbriche chiudono, sta diventando un immenso polo logistico, di cui Milano, Piacenza e Novara sono, diciamo, costituiscono un triangolo. Si può anche parlare del Veneto, dove ci sono fenomeni simili a quelli lombardi da un punto di vista delle lotte dei lavoratori. E questo, diciamo, è il piano di sviluppo economico di questa regione. Basta pensare che quando si fece la vertenza con la TNT di Piacenza, altra grande lotta di un anno fa, giusto un anno fa, scese il ministro direttamente a cercare una mediazione, dicendo: per noi lo sviluppo su questo settore è strategico, vanno bene i diritti dei lavoratori, però per l'Italia è strategico. Mi viene in mente comunque un collegamento anche con la lotta della Notav, perché poi la lotta è diversa, ma il terreno è questo: velocizzare il più possibile la circolazione delle merci e tutto il complesso di speculazione che ci sta intorno a questo meccanismo, perché se la produzione viene dislocata c'è bisogno poi di accelerare, diciamo, sul terreno di tutte le operazioni che riguardano la distribuzione, se no il tuo profitto non lo realizzi. E quindi qui ballano milioni e milioni di euro, insomma, in una vertenzialità. Questo è il dato secondo me interessante, una vertenzialità che comincia a diffondersi. È ancora più interessante il fatto che spesso i lavoratori di una cooperativa, di un determinato luogo di lavoro, accorrono a sostenere le lotte dei loro compagni che hanno evidentemente. Senti, ma secondo te il livello ecco, di solidarietà di questo tipo, no? Che si riscontra con i lavoratori immigrati, invece si riscontra magari purtroppo un po' meno con i lavoratori italiani, insomma, di altre aziende, di altre fabbriche che appunto sono minacciati dalla delocalizzazione, ecco, l'aiuto, cioè scusa, la solidarietà che avviene viaggia, si basa più che altro su un sentimento di comunità di questi lavoratori immigrati, oppure ci stanno anche altri canali su cui viaggia? Ma guarda, non siamo abituati a fare, diciamo, a essere autoreferenziali, però io credo che l'unico vero grande merito di questo piccolo movimento che, come dire, come Sicobas abbiamo cercato di aiutare, di innescare, di sostenere, è stato proprio quello, cioè cercare costantemente di far comprendere intanto che l'unità è l'arma che ti permette di vincere eventualmente anche su battaglie specifiche, cioè al di là di quale sia l'oggetto del contendere, che cosa stai rivendicando, che cosa stai chiedendo, che cosa stai difendendo. Questa unità sia da un punto di vista materiale, numerico, ma anche da un punto di vista, come dire, psicologico e politico, nel senso che quando tu ti vedi cancelli presidiati non solo dai tuoi dipendenti, ma e non tanto da, diciamo, militanti politici che da anni si sbattono e si battono su determinate questioni, ma vedi operai di altre fabbriche che vengono davanti ai cancelli, il padrone comincia a capire che forse il momento della cuccagna è terminato. Per cui, però questa è una cosa che si è cercato di comprendere, far comprendere, diciamo, in ogni momento in cui c'è stata la possibilità di fare assemblee, riunioni, incontri, discussioni, eccetera. Quindi è un, diciamo che è frutto, sì, sicuramente anche di un sentimento comune di chi ha vissuto grosso modo la stessa esperienza, anche se di paesi diversi, spesso di paesi uguali, quindi sono anche persone che lavorano in cooperative diverse, che si conoscono o si sono conosciuti qui o si conoscevano addirittura prima di venire in Italia, e quindi un certo collante, diciamo, particolare ha giocato sicuramente la sua parte, però diciamo che è stato un qualcosa di ragionato, di pensato e di spinto, diciamo, in senso politico da parte di chi ha cercato di costituire questo embrione di movimento. Quindi le due cose, cioè, si combinano, è un po' una scelta, ecco, diciamo, sì, no, ma infatti, di praticare la solidarietà di classe, mentre forse per la classe operaia autoctona che ha viaggiato e continua tendenzialmente a viaggiare sotto le bandiere di un sindacalismo confederale, che a mio modo di vedere fa esattamente il contrario, salvo i momenti delle manifestazioni, degli scioperi generali, che però, come dire, in cui la rappresentatività, e quando arrivano, la rappresentatività di questi momenti, di queste occasioni, non è comunque in mano ai lavoratori, agli operai, è in mano a burocrazie sindacali che si giocano il tutto sul piano della concertazione più conforme, più o meno radicali. Quindi forse diciamo che la classe operaia autoctona si è un po' disabituata a, come dire, a concepire la lotta di classe esattamente come la lotta di una classe, non solo la lotta di alcune sue porzioni in relazione a una vertenza, a una vicenda specifica o al massimo categoriale, ma anche le lotte di categoria si stentano a vedere quando ce ne sarebbe. Senti, io insomma, un elemento come la tua organizzazione, come elemento processuale e metodologico, insomma, della politica, della lotta, e quindi anche la solidarietà non solo come spirito comunitario ma come spirito di classe, sono elementi che stanno cominciando ad emergere e secondo me, insomma, aiutano anche a creare una coscienza dei lavoratori immigrati, ma un senso, ecco, della lotta che vada fuori, cioè che vada fuori, che vada oltre, insomma, le lotte che fino ad oggi abbiamo conosciuto, delle lotte dei lavoratori immigrati, insomma, cioè non solo il permesso di soggiorno, ecco, non solo la problematica, naturalmente giusta e sempre attuale, del razzismo, ma anche cominciare a vedere gli immigrati come lavoratori, come gli sfruttati, insomma, di questo paese, come uguali agli altri lavoratori, quindi un'emersione di una coscienza di classe, ecco, che viaggia intorno a questi operai. Si sta conformando, a mio avviso, direi che è in fase di conformazione. L'esperienza sta determinando dei passi in quella direzione lì, ovviamente contraddittori, quando perdi non sempre tieni botte, invece questi lavoratori di Basiano, che comunque non hanno perso, anzi ieri abbiamo fatto un'assemblea in cui emergeva, non sappiamo come si concluderà questa vicenda, però proprio a partire dal ragionamento che quello che sta accadendo a loro è un qualcosa che, se passa e se non viene contrastato adeguatamente, può diventare il metodo, cioè a me conviene prendere uno che lo pago sempre meno, quindi mi prendo il diritto di farlo, butto fuori e sostituisco immediatamente con gente che prende meno soldi. Se passa una cosa del genere e se la classe operaia in generale ritiene che sia un problema di quei 100 lavoratori, commetterebbe un grave errore, perché in realtà sappiamo che una volta che il padrone sperimenta certi metodi e gli risultano vincenti, tende a generalizzarli. E sarebbe stupido se non lo facessero dal loro punto di vista. E quindi, insomma, intorno a questa battaglia di Basiano noi continueremo, e questo è il terzo fronte aperto, non solo ad affidarci a trattative che comunque non credo che porteranno all'obiettivo, anche se stanno mettendo seriamente in difficoltà questa corporazione di padroni, tant'è che lo stesso Ministero del Lavoro si è schierato con noi durante la trattativa, cosa che evidentemente è frutto del fatto che si stanno un po' preoccupando tutti quanti, perché anche se tu vinci una battaglia, tu padrone vinci una battaglia, ma questo genera costantemente, alimenta, come se tu mettessi benzina sul fuoco, ed è un fuoco in cui nascono anche intelligenze, diciamo un settore di classe operaia immigrata che comincia ad auto-organizzarsi, a muoversi, a ragionare, a costituirsi in organizzazione, a darsi delle sue strutture, a concepire la propria presenza in Italia come elemento, diciamo, non dico centrale, comunque uno dei perni di una classe operaia internazionale che comincia a svolgere un suo ruolo, diciamo che politicamente può acquistare una certa rilevanza. Quindi diciamo che oggettivamente si è messo in moto qualcosa che va in quella direzione lì, però noi continueremo a mantenere una presenza ai cancelli. Sabato mattina ci sarà un presidio davanti a quei cancelli, quindi i lavoratori mantengono l'iniziativa, si lancerà una giornata di volantinaggio davanti a tutti i centri di vendita del gigante, arriverà una mail a tutti coloro che a Roma credo che non ci siano centri di vendita del gigante, però qui è piuttosto pieno, quindi insomma dobbiamo mantenere l'iniziativa, e devo dire che i lavoratori hanno tutta l'intenzione di farlo, cioè nonostante il licenziamento, le botte e gli arresti, subendoli, perché devo dire che dopo i primi 3-4 giorni insomma c'era evidentemente il senso di aver subito un attacco violento. Scusa un attimo se ti puoi mettere in un'altra posizione, perché il segnale comincia ad essere disturbato. Così? Abbiamo, non so perché, ma c'è un fruscio tremendo. Lo sento arriva. Anch'io il fruscio. Ecco, adesso forse va meglio. Vai. Dicevo, questo dato che i lavoratori intendono mantenere l'iniziativa collegandosi anche alle altre vertenze, come quella dell'S1, insomma. In un momento comunque difficile, perché oltre gli 89 licenziati sono stati licenziati anche altre 13 persone della cooperativa Crumira, chiamiamola così, che è la bergamasca, che lavoravano già lì e che hanno scioperato in solidarietà con i loro colleghi licenziati, e a causa di quello sciopero sono stati licenziati a loro volta, quindi in realtà parliamo di 102 licenziamenti in questo caso. Senti, io ti volevo fare un'ultima domanda, insomma, sperando che il segnale sia ancora ascoltabile, ecco, che era questo, insomma, due domande in una più che altro. Come mai c'è una forte composizione immigrata nella logistica di Milano, dell'Interland, insomma, di tutte queste grandi città del nord? E insomma, il fatto che i lavoratori immigrati appunto comincino ad emergere con le proprie lotte sul lavoro, insomma, è un fatto che avviene al nord ma anche al sud Italia, ricordiamoci, certo. Insomma, i lavoratori in agricoltura, in questo caso, in quel settore là, vedono un alto livello di sfruttamento, insomma. Insomma, non è un caso che sono i lavoratori immigrati forse ad emergere con lotte di avanzamento, forse perché appunto stando in Italia da molto tempo cominciano a vedere sia le differenze, insomma, di trattamento con i lavoratori autoctoni, sia perché comunque le esperienze di immigrazione portano forse una rabbia interiore, una coscienza, insomma, più forte, insomma, non so come andarla a definire adesso, insomma, a spiegarmi perché avviene questo in alcuni settori in cui la composizione immigrata in Italia è alta. Ma io credo che hai risposto tu. Mi stanno rispondendo. Solidarizzo con la tua risposta. Tu hai fatto la domanda. Mi sono dato anche una risposta. Hai dato anche una risposta. Forse si può aggiungere un elemento, essendo, diciamo, lavoratori che con il paese Italia, con la nazione Italia e le sue strutture politiche e ideologiche hanno molto meno a che vedere di un lavoratore italiano. Sono un po' meno propensi a farsi abbindolare da, appunto, le logiche nazionaliste, le logiche concertative, figlie di un movimento operaio italiano che ormai ha fatto il suo tempo in quel senso, in quanto movimento operaio italiano. Quindi ritorno a fare un ragionamento sul ruolo, per esempio, delle burocrazie sindacali, che dagli anni Ottanta e ancora oggi, come dire, collegati a quello che è il ruolo della sinistra istituzionale, insomma, la crisi passerà, bisogna fare dei sacrifici, bisogna difendere quello che abbiamo, ma allo stesso tempo i sacrifici sono necessari. Guardiamo il sostegno che ha il governo Monti praticamente da tutte le compagini politiche istituzionali in campo, sindacali comprese, a parte alcune dichiarazioni che proprio non producono nei fatti nulla di sostanziale. Forse i lavoratori immigrati hanno molti meno legami da questo punto di vista con questa cultura politica, e quindi una volta individuata una strada, come dire, per scrollarsi di dosso queste forme neoschiavistiche a cui sono soggetti tra l'altro da molti anni, cioè i lavoratori con cui stiamo, diciamo, costruendo questa impalcatura basandosi fondamentalmente su scioperi, su lotte, su percorsi di auto-organizzazione, sono per lo più persone che vivono in Italia da almeno 10 anni, cioè non è il nuovo arrivato che è costretto a lavorare per 2 euro dopo aver attraversato il Mediterraneo su un barcone, ammesso che non finisca in un CIE. Stiamo parlando di gente che qui ha, come dire, si è costruita la famiglia, ha avuto già dei nipoti qui, figli e nipoti nati qui, e parlo per esempio di una bella fetta di quelli che sono stati licenziati a Basiano, quindi una classe operaia, direi, ormai strutturata e strutturale, che ha acquisito coscienza oggettiva del suo peso e che adesso ha trovato, come dire, anche un canale che può essere espresso spesso anche solo in forma di appoggio, nel senso che hanno passato i sindacati confederali, hanno passato tutte le gradualità possibili e hanno incontrato finalmente un movimento, diciamo, più radicale che risponde un po' alla volontà anche di scrollarsi di dosso non solo lo sfruttamento economico, ma questo è il caso sicuramente di Esselunga, anche un regime di trattamento umanamente intollerabile. Quindi questo è un altro elemento che compare in quasi tutte queste lotte, diciamo, la lotta per la dignità, per diciamo, contro il razzismo, ma comunque contro il dispotismo dei capo, dei caporali, dei capi reparto, di tutta la gerarchia aziendale che sottende a quel livello di sfruttamento. Le due cose si combinano molto, quindi è anche un po' un movimento, diciamo così, di rottura di determinate catene che evidentemente esistono all'interno del mondo della logistica e non soltanto all'interno del mondo della logistica, certo. Che però qui è una delle denunce che viene fatta sempre, tant'è che nella stragrande maggioranza delle piattaforme se non al primo posto, al secondo, ci sono i nomi e i cognomi dei caporali che vogliono essere allontanati. Quindi molte volte dentro lo sciopero c'è la rivendicazione che quel capo venga rimosso, e finché non viene mandato via non si torna a lavorare. Certo, che vuol dire che ne hanno le scatole piene. Infatti, un po' di tutto il clima che sei costretto a subire magari da molti anni, ecco. Senti, guarda, io approfitto di te come ultima domanda, insomma, terminando anche, cioè cercando di andare a concludere, insomma, questo ragionamento che stiamo facendo su queste lotte, per andare a pubblicizzare un'iniziativa che facciamo come Radio Onda Rossa, no? Domani, venerdì 6 luglio, insomma, a Villa Mercedes qui a San Lorenzo alle 21:30, a radio ha preparato un'iniziativa, insomma, sui 50 anni di Piazza Statuto, no? Sì. Naturalmente, insomma, ricordiamo, Piazza Statuto fu non l'inizio, ma sicuramente la parte più alta della fase iniziale, che poi per 20 anni ha accompagnato le lotte della classe operaia, della determinazione, insomma, che stiamo raccontando e che vediamo molto, insomma, dentro alle lotte di questi lavoratori immigrati, dentro i vari settori dell'agricoltura al sud e della logistica al nord Italia. Ecco, secondo te, insomma, cioè, sicuramente non siamo ancora di fronte a ad eventi come quello da parte della classe operaia, insomma, più sfruttata di quel settore, della classe operaia più sfruttata come i lavoratori immigrati, ecco. Però, insomma, oggi che vediamo lotte resistenziali, appunto, nella parte dei lavoratori autoctoni, come dicevamo prima, insomma, no, la costretti sui tetti, sulle ciminiere, nelle fabbriche ormai, insomma, quasi vuote, la frammentazione e la precarizzazione del lavoro asservita ad un'ideologia dominante in Italia fa sì che, appunto, ci sia un immobilismo di un settore, diciamo, autoctono quasi, cioè, voglio un po' esagerare, naturalmente non è così, però, insomma, magari dei sentimenti di quel di Piazza Statuto, insomma, di quei primi albori della classe operaia in Italia nel post guerra, insomma, ricominciamo un po' a vedere dentro quelle lotte dei lavoratori immigrati. Sì, anche le forme con cui si danno, insomma, un po' mi ha stupito in questa esperienza degli ultimi 3 anni vedere che una porzione di classe operaia che è rimasta per 5, 7, 10 anni a fare gli schiavi per i padroni italiani senza nessuna o quasi nessuna esperienza di lotta, diciamo, nel senso pratico, quando parte la lotta c'hanno, come dire, mettono in campo un'intelligenza, una consapevolezza di come si fa, che, come dire, fa ben sperare, per cui si parte subito con lo sciopero, il blocco, picchetto, come se fossero avvezzi a, come se avessero una conoscenza diretta che in realtà non hanno mai avuto all'interno delle fabbriche, né nel loro paese, né qui, sono fatte qui. E quindi anche una radicalità di un certo livello. Adesso non sta a noi, neanche ci interessa stare a rivendicare, diciamo, l'estetica di forme di lotta, però quello che abbiamo visto a Basiano è che di fronte alla violenza dello Stato capitalista, che è disposto a menare degli operai inermi davanti ai loro cancelli che difendono il loro posto di lavoro usurpato dalle cose che dicevamo all'inizio di questa intervista, e che reagiscono, non stanno lì a prendersele semplicemente a fare le vittime, ma difendono coerentemente fino a dove possono arrivare. È chiaro che poi quando cominciano a spararti addosso siamo su un terreno che fondamentalmente, diciamo, in questo momento e in generale probabilmente è perdente, cioè lo Stato ha un esercito e tu hai le mani nude perché non sei lì, certo, per fare la guerra. Però, insomma, come dire, forme di resistenza, di dignità, di determinazione, di consapevolezza di qual è la posta in gioco, che cominciano a intravedersi, cominciano a fare capolino da un ventennio di, quando va bene, lotte di carattere resistenziale o manifestazioni passeggiate, come io spesso le definisco, un po' il folklore della manifestazione con tante bandiere e poco contenuto. E invece qui magari numeri anche, diciamo, concentrati, ridotti, 100, 150, 200 operai sono in grado di costituire, di creare, diciamo, degli eventi di portata nazionale, perché Basiano, sia per ciò che è successo e sia per il contenuto che la caratterizza, è una lotta che ha una sua dimensione nazionale. E quando 100 operai si rendono conto che dopo 10 anni di silenzio, con un'azione, come dire, tutto sommato abbastanza semplice da mettere in campo, acquisisce un peso nazionale, questo fa il giro, questo crea un tantam, questo spiega perché c'è una sorta di movimento nelle cooperative, perché il tantam è intensissimo, senza volantini tra l'altro, è un tantam interno a, diciamo così, la comunità operaia immigrata. Si viene a sapere, quello ha detto, quello ha fatto, quello conosco, quello è già stato lì, ma prova a telefonare a questi. Insomma, è un movimento fra virgolette spontaneo. Adesso questo è forse il vero problema: come questo movimento può cominciare a strutturarsi, a, come dire, a progettare qualcosa di un po' più avanzato. Organizzativamente, ecco. Sì. Sì, organizzativamente, anche politicamente, come cominciare a essere un soggetto che abbia il peso che merita, visto che il peso oggettivo di questa porzione di classe operaia è fondamentale, perché è vero, come dicevi tu, che nella logistica sono tutti immigrati, o quasi, 95%, forse perché a questo punto si spiega il legame tra lo sfruttamento padronale e le leggi che abbiamo sempre definito razziste. La legislazione che è cominciata dall'era di Martelli ed è andata fondamentalmente peggiorando negli anni sempre di più, questa legislazione non fa che favorire, diciamo, la creazione di una massa ricattabile che poi, per uscire dalla clandestinità e quindi evitare l'espulsione, l'internamento nei CIE e quant'altre sono le disgrazie che un immigrato deve affrontare prima di essere un cittadino semilibero, questo ha favorito, diciamo, andare a pesca di manodopera che, quando si vede un contratto a 7 euro, si lecca i baffi. Certo. Poi quando scopre che su quei 7 euro il padrone ne guadagna 14, per guadagnare quei 7 euro devi prostrarti come un animale, e in più scopre che c'è qualcuno che sta cominciando a combattere per qualcosa di diverso. Ecco, io ritengo che questo ha dato un po' la stura a ciò che sta cominciando a cadere. Va bene, grazie Fabio. Grazie, insomma, a voi. Abbiamo grazie fatto a voi. Un lungo approfondimento, lo continueremo a fare, continueremo non solo a solidarizzare ma ad aprirvi i microfoni quando ce ne sia naturalmente bisogno, e perché naturalmente queste lotte continueranno ad andare avanti. Sicuro. Non solo come desiderio, ma lo vediamo nei fatti materialmente, insomma, quindi, insomma, tanto un augurio di buona lotta, la nostra solidarietà, e naturalmente ci risentiremo prossimamente per altri aggiornamenti. Grazie. Grazie a nome di tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.